saprò ancora incontrarti sul ciglio del muro dell'incomprensione, laddove le speranze volano alte e non ci sono dolori. Ma ogni volta che mi parli amore, tu mi tocchi il cuore. E non ho paura a dirti grazie, non ho paura ad osare. Ma non ho scuse fresche e i miei alibi sono di seconda mano. E non ho pretese certe e dopo domani forse parte il mio treno. E ora tu scrivi nel vento l'incanto dei tuoi pomeriggi di sole. E ora tu scrivi nel sole un'altra storia, un'altra verità. E se il tuo viaggio andasse lontano, io ti giuro ti vorrei accompagnare. Mi presteresti ancora i tuoi occhi, vorrei vederci il doppio dei miei. Io che avevo grate alle finestre per volare più sicuro. Nella mia stanza e tra le mie carte al riparo di un vecchio pezzo di muro. Ma non li senti i muri crollare? Certe volte ti sento così vicina. E le parole, maledette parole, volano via su navi veloci. Quanto è difficile stare con gli altri e quanto è facile stare con te. Ho scordato a casa il mio fucile, tanto non credo che mi servirà. Ti prego, insegnami a sparare senza esplodere mai un colpo. Ti prego, insegnami a cambiare senza il dolore di sentirmi morto. Tu che sei soltanto una poesia, la più bella che io abbia mai scritto. Tu che mi parli di libertà e non pretendi mai nessuno.